Il suo titolo è 4 anni vissuti pericolosamente, nel senso che si parla dell'esperienza del movimento No Global italiano a partire da un punto di vista bolognese, nel senso che l'esperienza del Bologna Social Forum fu una delle più importanti a livello nazionale. Il Social Forum bolognese fu tra i primi a nascere, nacque 2 mesi prima di Genova, e quindi a partire da un punto di vista di militanti e attivisti della nostra città si raccontano tutti gli episodi precedenti alle mobilitazioni contro il G8, a partire da Nox, che in qualche modo sancì la nascita del movimento No Global nella nostra città, poi le manifestazioni a Praga, quindi il racconto del viaggio in treno, c'è tutta una parte sui treni speciali che permisero per diversi anni a far sì che le manifestazioni del movimento No Global fossero manifestazioni oceaniche, insomma, anche perché quello che si riuscì a ottenere anche con un livello di mobilitazione per quanto riguarda il discorso dell'organizzazione dei treni speciali fu molto importante. Oggi queste cose non esistono più. Poi da Praga si passa a Ventimiglia alle contestazioni durante la discussione della Carta europea, poi si arriva a Genova e anche lì si racconta, viene raccontata Genova a partire dall'esperienza appunto dei tanti compagni che andarono nella città ligure in quelle giornate. Si racconta appunto direttamente quello che avvenne il 20, il 21, poi la difficoltà del rientro. E poi il movimento sicuramente non finì con Genova, ci fu la grandissima mobilitazione del 24 luglio e poi cominciò purtroppo a farci avanti la questione della guerra. Dopo 11 settembre, la guerra in Afghanistan, l'organizzazione di una grande mobilitazione sia in città che a livello nazionale, e subito dopo, insomma, nei mesi successivi, la guerra in Iraq, i 3 milioni di Roma, i 110 milioni, l'altra superpotenza che produsse un livello di mobilitazione altissimo, ma non fermò adeguatamente i decisi da Bush, che qualche giorno dopo questa mobilitazione mondiale decise di iniziare i bombardamenti in Iraq. È un racconto che non si ferma a Genova. Genova è la parte centrale, ma ci sono gli anni precedenti e gli anni successivi, che è un po', diciamo così, lo spirito che ha dato vita alle iniziative che abbiamo organizzato in questi mesi con il centro di documentazione dei movimenti Avax 61. Nel libro ci sono una copertina che ha una storia particolare e anche un inserto fotografico di Luciano Nadalini. La copertina è un regalo che un illustratore americano, che nelle giornate precedenti a Genova si fermò per un po' di tempo a Bologna, frequentò gli spazi sociali di Bologna, Seth, era un illustratore schierato naturalmente, fece questa illustrazione che venne stampata su 500 magliette e che rappresentò in qualche modo, tra virgolette, la divisa di tanti attivisti del Bologna Social Forum a Genova. Insomma, fu un modo di presentare, un bellissimo disegno, questa illustrazione appunto è stata utilizzata per la copertina. Poi l'inserto di Luciano Nadalini credo che sia anche un riconoscimento di un lavoro fatto sul campo per tanti anni da Luciano, e quindi d'accordo con l'editore abbiamo inserito queste foto che raccontano un po' tutta la storia del movimento a Bologna in quei 4 anni. Partendo appunto invece dall'esperienza di quel movimento che, avendo posizioni molto diverse, comunque riusciva a presentarsi in modo unitario e a mettere insieme trasversalmente appunto istanze molto diverse. Oggi la sensazione è che ci sia invece un arroccamento un po' identitario, perché che non riesce a esprimere la stessa forza che espresse quel movimento, è così? Sì, c'è questo aspetto. Infatti un po' la parte finale del libro, che il libro si conclude con la fine di quel movimento, perché non soltanto, insomma, si parla delle glorie, ma anche della fine, che è stata una fine che in qualche modo ha prodotto la situazione attuale, che è una situazione che non è che sia morta dal punto di vista della resistenza sociale alle dinamiche che sono venute avanti in questi anni, però ognuna delle risposte che vengono date sono sicuramente risposte insufficienti. C'è una difficoltà oggettiva a costruire qualcosa di unitario, veramente si creano le condizioni per farlo, ci sono tanti fuochi di resistenza, tutti non sono assolutamente sufficienti per quello di cui ci sarebbe bisogno, insomma, per rispondere al disastro sociale che si è prodotto a partire dalla pandemia, ma anche prima. C'è una cosa che vorrei dire, perché comunque è un po' una caratteristica del movimento. Dopo l'assalto di Forza Nuova alla CGIL dei giorni scorsi, in molti si sono accorti la presenza di Forza Nuova, c'è questo antifascismo diffuso a livello istituzionale. Io voglio ricordare che il Movimento Bologna ebbe il suo varo ufficiale il 20 maggio del 2000 con la manifestazione organizzata contro Forza Nuova, contro questo convegno europeo di Forza Nuova. Questa manifestazione fu caricata dalle forze dell'ordine in maniera brutale. 10.000 ragazzi, soprattutto giovani, scesero in piazza, e quindi fu un segnale molto importante. E poi i giornali il giorno dopo attaccarono i nascituri No Global per questo tipo di contestazione, per questo tipo di protesta. Negli anni successivi, molto spesso, quando Forza Nuova ha cercato, o Casa Pound, di fare qualcosa a Bologna, sempre sono stati i centri sociali, i movimenti a scendere in piazza. La sinistra istituzionale, quando è andata bene, si è riunita davanti al sacrario di Piazza Nettuno, altrimenti l'unica cosa che ha fatto parlava di opposti estremismi, di violenze di piazza e quant'altro. Ecco, oggi tutti si rendono conto di questa presenza che si è radicata nel corso degli anni, anche a livello sociale e tra soggetti che dovrebbero essere il punto di riferimento della sinistra. L'ultima cosa la dico, che riguarda la chiarezza con cui si va in piazza. Qualcuno ha detto sulla manifestazione di Roma, ma si sono infiltrati quelli di Forza Nuova e quant'altro, cioè, se dalla parte del movimento non si riesce a dire qualcosa di concreto contro il Green Pass, e poi è chiaro che succedono queste ambiguità. Ecco, voglio ricordare una cosa: il discorso contro la globalizzazione, che partì appunto con l'esperienza del movimento No Global, veniva fatto anche dalla destra. Il movimento No Global parlava di globalizzazione dei diritti, di libera circolazione delle persone, non solo delle merci. Quando ci fu la contestazione al NOx, la fiamma tricolore si propose di partecipare ai nostri cortei, ma fu tenuta ben distante, lo si disse, è una pratica antifascista, l'abbiamo dimostrato in tutti gli anni, fu portata avanti. Ecco, quindi a volte può succedere che su discorsi giusti che si possono fare qualcuno cerca di infilarsi, però è altrettanto importante avere una chiarezza. Insomma, l'antifascismo è stata una delle linee di riconoscimento principali del movimento No Global.